Componimento 180° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Oh, ben può tu portarte nella scorza di me con tue possenti e rapide onde, ma lo spirto chi ventro si nasconde non cura né di tua né d'altrui forza, lo qual senza alternar poggia con orza dritto per l'aure al suo desir seconde, battendo l'ali verso l'aurea fronde, l'acqua, il vento e la vela e i remi sforza. Re degli altri, superbo altero fiume, che incontri il sol quando e ne mena al giorno, e imponente abbandoni un più bel lume, tu te ne vai col mio mortal sul corno. L'altro, coverto d'amorose piume, torna volando al suo dolce soggiorno. Fine del componimento.